Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 2 genealogia di Giuda patriarca, fino ad Isei padre di David, ed i fratelli, e sorelle di lui. Figliuoli di Israel sono Ruben, Simeon, Levi, Giuda, Issacar, e Zabulon, Dan, Giuseppe, Beniamine, Neftali, Gad, e Aser. Figliuoli di Giuda, Onan, e Sela, questi tre furono a lui partoriti dalla figliuola di sue Cananea. Primogenito di Giuda fu uomo cattivo dinanzi al Signore, il quale lo fece morire. E Tamar nuora di Giuda partorì a lui Fares, e Zara. Giuda dunque ebbe in tutto 5 figliuoli. I figliuoli di Fares, Esron, e Amul. I figliuoli di Zara, Zamri, ed Itan, ed Eman, e Calcal, e Dara, 5 in tutto. Figliuolo di Carmi, Achar, il quale messe su sopra Israele, e peccò di furto di anatema. Figliuolo di Itan, Azzaria. I figliuoli, che ebbe Esron, Geramil, Eram, e Calubi. Eram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, principe dei figliuoli di Giuda. Naasson poi generò Salma, da cui venne Buz. E Buz generò Obed, il quale poi generò Isai. E Isai generò Eliab suo primogenito, secondo Abinadab, terzo Samma, quarto Natanael, quinto Raddui, sesto Asom, settimo David, dei quali furono sorelle Sarvia, e Abigail. I figliuoli di Sarvia 3, Abisai, Joab, e Asael. Abigail fu madre di Amasa, di cui fu padre Jeter Ismaelita. Caleb figliuolo di Esron prese per moglie Azuba, dalla quale ebbe Geriot, e figliuoli di lei furono Yaser, e Sobab, e Ardon. E morta Azuba, Caleb sposò Efrata, la quale gli partorì Ur. Ur poi generò Uri, e Uri generò Bezalel. Di poi Esron prese la figlia di Machir principe di Galad e la sposò avendo egli 60 anni, ed ella gli partorì Segub. E Segub generò Jair, il quale fu signore di 23 città nella terra di Galad. Ma Gessur e Aram presero le città di Jair, e Canat Cog suoi 60 villaggi, i quali tutti erano del figliuolo di Machir principe di Galad. Morto poi Esron, Caleb sposò Efrata. Esron ebbe per moglie anche Abia, la quale gli partorì Ashur principe di Tequa. Ma Geramil il primogenito di Esron, ebbe Ram primogenito, e Buna, e Aram, e Asom, e Achia. Un'altra moglie ancora ebbe Geramil, di nome Atara, la quale fu madre di Onam. Figliuoli di Ram primogenito di Geramil, furono Mos, Gemin, e Achar. Di Onam furon figliuoli Semei, e Giada. Figliuoli di Semei, Nadab, e Abisur. E la moglie di Abisur si nomò Abiail, la quale partorì a lui Oban, e Molid. Figliuoli di Nadab furono Saled, e Appaim. E Saled morì senza figliuoli. Appaim ebbe un sol figliuolo Iesi, il quale Iesi generò Sesan. E Sesan penerò Olai. Figliuoli di Giada fratello di Semei, Jeter, e Jonathan, ma Jeter morì senza figliuoli. E Jonathan generò Falt, e Ziza. Questi furono i figliuoli di Geramil. E Sesan non ebbe figliuoli, ma sì delle figlie, ed ebbe un servo egiziano per nome Ira, a cui diede per moglie una sua figlia, la quale partorì a lui Etei. Etei generò Nathan, e Nathan generò Zabad e Zabad generò Oflal, e Oflal generò Obed. Obed generò Jehu. Jehu generò Azzaria, Azzaria generò Elles, Elles generò Elasa, Elasa generò Sisamoi, Sisamoi generò Sellimi, Sellimi generò Icamia, Icamia generò Elisama. Figliuoli di Caleb fratello di Geramil, Mesa suo primogenito, che fu principe di Zif, e i discendenti di Maresa padre di Ebron. Figliuoli di Ebron, Core, e Tafua, e Recem, e Samma. E Samma generò Raam, padre di Gercam, e Recem generò Sammai. Figliuolo di Sammai, Maon, e Maon padre di Betsur. Ed Efa concubina di Caleb partorì Aran, e Mosa, e Jezez. E Aran generò Jezez. Figliuoli di Addai, Regom, e Jotan, e Jezan, e Falit, ed Efa, e Saf. Macha concubina di Caleb, partorì Saber, e Tbarana. E Saf principe di Madmena generò Sue, che fu principe di Macbena, e principe di Gabaa. Figliuola poi di Caleb fu Aksa. Questi sono i figliuoli di Caleb, figliuolo di Ur, primogenito di Efrata, Sobal principe di Kariatiarim, Salma principe di Betlehem, Arif principe di Betgeider. E Sobal principe di Kariatiarim, il quale possedeva la metà del luogo del riposo, ebbe dei figliuoli. E delle famiglie loro in Kariatiarim vennero gli Getrei, e gli Aputei, e i Sematei, e i Maserei da quali derivarono anche i Saraiti, e gli Estaoliti. Figliuoli di Salma, Betlehem, e Netofati, corone della casa di Joab, e la metà del luogo del riposo fu di Sarai. Vi sono ancora le famiglie dei dottori della legge, che abitano in Jabes, e abitano sotto le tende cantando, e suonando. Questi sono i cinei discesi da Kamat padre della casa di Rechab. 2,3 Erp fu uomo cattivo e ci dicesi, che il suo peccato fosse quello stesso, per cui Dio puni Onan, gennaio 38. 2,7 Achar, il quale messe so sopra i ci. E perciò fu detto Achar, disturbatore, dove prima chiamavasi Akan. Vedi Ios. 7 I 2,9 Ram. In altri luoghi detto Aram. Egli fu padre di Aminadab. 2,10 Principe dei figliuoli di Giuda. Mosè avendo eletti i principi delle tribù nel deserto, Nabasson ebbe quella dignità nella sua tribù di Giuda. 2,15 Settimo David. Isaia aveva 8 figliuoli. Come sta scritto, i ragioniere 16. 10. Gli ebrei, e dietro ad essi moltissimi interpreti credono che uno dei figliuoli di Isai fosse adottivo, perché uno dei suoi figliuoli essendo morto nella prima gioventù, lo stesso Isai adottasse per suo il di lui figliuolo, che fosse Jonathan figliuolo di Samaa. 2,23 Ma Cessur e Aram presero Eci. Si intende i popoli di Gesur e di Aram, che è la Siria. 2,31 Sesan genero Olai. Sesan ebbe quest'unica figliuola. Vedi VV34. 35 2,42 Figliuoli di Caleb, detto Calubi, VDE. Egli è diverso dal celebre Caleb figliuolo di Gefone. 2,52 Sobal principe di Kuriatiarim. Il nome di padre è detto qui sovente a fondatori delle città, nelle quali si poserono i loro discendenti, così Sobal era padre, cioè principe di Kuriatiarim. Il quale possedeva la metà eci. Di un tratto di paese detto Menukab, ossia luogo del riposo, si parla Ios, 20. 48, vedi V54. E capitolo 8. 6, 2,54. Corone della casa Eci gloria della casa di Joab. Fu di Sarai. Fu abitato dal discendenti di Sarai. 2,55. Vi sono ancora le famiglie dei dottori Eci. I Recabiti, dei quali si è parlato altrove. Abitavano alla campagna sotto le tende, non coltivavano la terra, e non avevano né vigne, né altra possessione, Geram 25. 6, 7. 8. Eci, quindi avevano gran comodità di studiare e meditare la legge e di conservarne e propagarne la dottrina? Onde sono qui detti dottori, ossia scribi, cioè scrittori della legge. Egli non si occupava molto in cantare le lodi di Dio al suono dei loro strumenti. Forse si parla qui dei Cinei discesi da Rechab, perché questi abitarono nella tribù di Giuda, mentre quelli discesi da Eber andarono a stare nella tribù di Manasse Giud. 4.11. Sembra che i Cinei fossero associati a Leviti in qualche parte almeno del servizio del Tempio. Discesi da Kamat. La volontà ha posto il significato del nome proprio. Kamat vuol dir calore.